Beh, buonasera a tutti. Sono veramente felice e onorata di essere qui questa sera, perché dopo aver sentito come avete impostato questa iniziativa di coinvolgimento della popolazione sulla mobilità, penso che voi non abbiate affatto bisogno di me, quindi me ne posso andare, avete fatto tutto a posto. Meglio di così non si poteva. No, nel senso che in un certo senso si vede proprio che non siete degli specialisti, perché spesso gli specialisti fanno le cose molto più meno poeticamente e meno coinvolgenti, no? Quindi, cioè, voglio dire, per esempio, la discussione sulla mobilità. Uno si aspetta che immediatamente uno si metta a discutere delle automobili, degli scappamenti di automobili dei mezzi pubblici. Invece voi siete partiti dal legame affettivo, volontà di ingiurare il legame affettivo verso il territorio e quindi dal cittadino sentimentale, in qualche modo, no? Che è molto importante, molto giusto. Io sono molto d'accordo con questo tipo di... insomma, l'obiettivo è che la gente si deve chiedere: cosa devo fare per sentirmi più a mio agio? Questa è la domanda. Tutti quanti si chiedono cosa bisogna fare, come bisogna migliorare, cambiare. Dare la possibilità alla gente di fare quella che viene chiamata una SWOT analysis, che è un solito acronimo, che però è molto utile perché... è un modo per fare una diagnosi rapida delle situazioni. E SWOT vuol dire, in inglese, strengths, punti di forza, weaknesses, punti di debolezza, opportunities and threats. Quali sono i punti di forza del nostro ambiente? Allora, fai la camminata, avete fatto ben 5 camminate, e mentre cammini dici: quali sono i punti di forza, quali sono le cose di cui siamo orgogliosi, quali sono le cose che ci piacciono e che vorremmo ulteriormente valorizzare, perché per sentirci bene, per sentirci fieri di questo luogo a cui apparteniamo, di cui siamo abitanti. E quindi sempre partire dalle cose più positive, no? Quali sono i punti di forza? Come facciamo a valorizzarli? Poi quali sono i punti di debolezza? Che sono le cose che invece vanno corrette, che potremmo, e queste sono venute fuori dalla vostra analisi, mi sembra molto bene. Quali sono le opportunità? C'è qualcosa che succede fuori da questo contesto che ci può rafforzare, che ci può valorizzare, che ci può, anche dal punto di vista economico, altro, dare maggiori risorse, eccetera? E quali sono le minacce, threats? C'è qualcosa che succede là fuori che ci potrebbe rovinare la vita, peggiorare la situazione, eccetera, no? E questo, tutte le persone che partecipano a questa indagine dicono quello che vedono, quello che pensano, e lo dicono camminando. Io sono molto... il muoversi, il camminare è collegato al pensiero. Se io giro per il paese, se io vado a vedere le vecchie camminamenti, i vecchi sentieri abbandonati, se li percorro, fin dove è possibile percorrerli, mentre io cammino mi vengono in mente delle idee, delle proposte che altrimenti non mi sarebbero mai venute. Non si fanno queste cose in una stanza. Si fanno sempre camminando e chiedendo ai bambini, a tutti gli stati di popolazione. Quando io arrivo in un posto e organizzo la camminata di quartiere, e prima della camminata di quartiere le interviste, c'è un principio fondamentale della costruzione di comunità, che non è la montagna che va a Maometto e Maometto che va alla montagna, vi mettete come volete, vuol dire: quando incominciate un lavoro di comunità, non dovete indire, il lavoro di comunità non inizia con una riunione, neanche in una sala bella come questa. il lavoro di comunità inizia andando a trovare la gente dov'è e andando a chiedere alla gente cosa pensa dell'ambiente in cui vive. Quali sono le situazioni che ha vissuto di agio e di disagio. E quindi la loro esperienza. Qualsiasi sia l'obiettivo per il quale voi fate l'indagine partecipativa, la prima cosa devi andare a casa loro. A casa loro vuol dire anche al bar, vuol dire anche nelle associazioni, no? Però vai tu a trovarli e non gli vai a spiegare che tu stai facendo un piano partecipativo e che loro devono, se sono dei bravi cittadini, partecipare, ma vai a chiedere la loro esperienza. E quando la loro esperienza è l'ascolti, è interessante, impari delle cose. E a questo punto gli dici, guardi, se noi vorremmo, per fare bene quello che qualsiasi cosa noi vogliamo fare, lei ci deve dare una mano. Vedete, è proprio rigirare il modo comune col quale uno intende la politica o la militanza, queste parole terribili, no? C'è un aspetto femminile di corteggiamento femminile, non per vincere, ma per stare assieme, per creare un comune terreno, che è molto importante. E questo qualsiasi esperto di costruzione in comunità lo sa. Quindi il punto di partenza è già questo. Cioè il punto di partenza di qualsiasi progetto, di qualsiasi impresa partecipativa è una mappatura del territorio, che vuol dire l'elenco delle persone che devo andare a trovare, e a ognuna con cui parlo chiedo chi altri ci deve essere perché questa cosa sia efficace, no? E quindi a un certo punto arrivi ad avere tutto un elenco di persone che sono anche interviste, che sono anche rapporti personali, e poi quando è abbastanza che nessuno dice vabbè, ci siamo tutti i punti di vista, tutte le esperienze che erano utili avere, ne aggiungi qualchedun'altra. Quale? Qualcheduna che non c'entra niente. Perché è molto utile avere delle esperienze che non c'entrano niente, perché costringo gli altri ad essere creativi. Allora, chi è che non c'entra niente? Uno che rappresenta le generazioni future, per esempio. È molto utile avere una persona che, vabbè, non è facile trovarla, così che concordiamo che quello potrebbe parlare a nome delle generazioni future. Qualsiasi cosa facciamo, noi abbiamo un dovere, che è quello dell'Agenda 21, no? E di Rio, eccetera, di conservare l'equilibrio, la ricchezza della natura di cui noi siamo parte. Oppure chiamare un artista, uno che fa public art, qualcuno che ci porta un'ottica che ci spiazza, no? Che ci obbliga ad affrontare le cose da un altro punto di vista. Allora, questo è l'inizio di un processo partecipativo. E mi pare che perché se iniziate un processo partecipativo così, verrà fuori le cose che sono venute fuori. Secondo me voi l'avete fatto abbastanza, insomma, da quello che ho sentito, perché la gente mette lì le proprie preoccupazioni, i propri valori, che sono veramente molto importanti per poi prendere delle decisioni serie che contano. Ed è molto importante che ci siano tutti i punti di vista. Cioè che cosa vuol dire avere tutti i punti di vista? Vi racconto una ricerca, l'esito di una ricerca che poi cito anche lì nel libro Confronto Creativo. Il cui sottotitolo è Dal diritto di parola al diritto di essere ascoltati, no? Perché non basta poter parlare, bisogna anche, come dice questa legge qua, avere il modo di parlare per poter incidere sopra le decisioni, per poter vedere che si è stati ascoltati, presi sul serio. C'è un signore, un economista di una grande università americana che è Caltech a Los Angeles, che ha fatto una ricerca con un computer e mettendo a confronto la soluzione ai problemi presa da gruppi di esperti e da gruppi che lui ha chiamato differenziati. c'era uno stesso problema. Da un lato c'erano degli esperti che lo affrontavano, degli esperti di quel problema lì, cioè delle persone che si erano specializzate nell'affrontare da vari punti di vista nell'affrontare quel problema, e dall'altro dei gruppi che nel computer erano semplicemente dei gruppi presi casualmente, dei campioni statistici, quindi delle persone che, la cui caratteristica era il massimo di differenziazione. E da questa ricerca quello che veniva fuori è che il gruppo differenziato arrivava sistematicamente a delle decisioni migliori del gruppo degli esperti. Allora si chiede come mai, cioè non è molto logico, no? Cioè uno studia così tanto e poi dopo... allora lui ha cercato di approfondire la cosa, specialmente andando a vedere nella realtà esterna, non solamente nel gioco del computer, e quello che è venuto fuori è una cosa abbastanza banale dopo che si è detta, ma niente affatto ovvia nella nostra vita quotidiana, e cioè che se il gruppo differenziato è un gruppo in cui tutti coloro che hanno a cuore quel problema, tutti i punti di vista di coloro che hanno a cuore quel problema hanno voce, quindi in cui tutti i punti di vista, che non vuol dire tutte le persone, ma tutti i punti di vista di chi ha a cuore quel problema sono presenti, in questo gruppo sono presenti anche gli esperti. Quindi il gruppo differenziato è un gruppo inclusivo in cui ci sono anche gli esperti. Invece nel gruppo degli esperti ci sono solo gli esperti. Allora quello che viene fuori è che l'apporto che coloro che vivono quella situazione, pur non essendo esperti, danno per la soluzione del problema è decisivo. Così come decisivo non escludere gli esperti, naturalmente, no? Però se io chiedo alle classi dei miei studenti come mai secondo voi il gruppo differenziato funziona meglio di quello degli esperti, non viene mai in mente che nel gruppo differenziato ci sono anche gli esperti, perché la visione che noi abbiamo o gli esperti o gli altri, no? Invece no, è un gruppo vero di inclusivo, no? Inclusivo vuol dire con tutti i punti di vista. E il fatto che ci sia una buona mappatura, io poi nel libro la chiamo valutazione etnografica, cioè che prima di iniziare un processo partecipativo gli iniziatori, coloro che si stanno lavorando, scrivano un paio di cartelle dicendo su questo problema le preoccupazioni, i valori, le proposte che abbiamo raccolto sono queste. L'arco intero delle proposte senza nomi e cognomi, cioè proprio le proposte, no? Questo è molto importante perché ti consente una cosa che Giuliano Amato, che forse conoscete, il dottor Sottile, uno dei politici italiani più noti, ho fatto una chiacchierata con lui sul confronto creativo alla fine del libro, per chiedergli perché in Italia, cioè ce ne sarebbe un bisogno estremo ovviamente, ma perché in Italia non si usa il confronto creativo? Secondo te ce ne sarebbe bisogno o no? E lui spiega il motivo per cui ce ne sarebbe estremo bisogno, secondo lui, che mi ha fatto molto piacere ovviamente, perché lui dice ormai tutte le decisioni politiche vengono prese sulla base di dossier incompleti, questo è il termine che lui usa. Cioè la decisione politica viene presa con una lobby che arriva lì con una richiesta di prendere una decisione e con del materiale di supporto, no? Quindi delle ricerche che portano acqua al proprio mulino e dice vedi, quella dimostrazione scientifica che quella cosa che noi ti chiediamo va bene da fare. Allora, il politico a cui arriva la lobby, arriva questa richiesta, chiama un proprio esperto e gli dice guarda un attimo, fammi sapere cosa ne pensi. L'esperto la guarda, aggiunge delle cose, fa delle osservazioni e poi la decisione viene presa. L'opposizione di solito dice no perché la maggioranza ha detto sì e quindi non ha veramente, questo lo dice Giuliano Amato che ha una grossa esperienza in questo campo, non ha nessuna idea di come altro si potrebbe fare e dopo 24 ore che è stata presa la decisione si scopre che c'erano dei pezzi fondamentali che la rendono inoperante o maloperante. Quindi che quella decisione è stata presa male. Allora, il fatto di poter avere, e guardate che questo vuol dire degli sprechi anche economici, fuori da grazie di Dio. Guardate cosa sta succedendo in Italia in questo periodo con le alluvioni, le cose, eccetera. Insomma, la cura del territorio, solamente quello, no? Cioè, è possibile che non si possa mettere insieme un sistema di monitoraggio e di intervento partecipato, perché solo può essere partecipato, ma efficace, no? Che impedisca queste cose qua, no? Cioè, che sia un modo non burocratico, ma pragmatico, efficace, vero, per affrontare questo tipo di problemi. Che tutti coloro che hanno cuore, che si pone, possono avere voce in capitolo e insieme progettare delle modalità di intervento, no? E anche dal punto di vista finanziario, eccetera. No? Questa, allora l'idea è che se io do voce, do protagonismo a tutti coloro, a tutte le posizioni, a tutti gli interessi che hanno a cuore quel dato problema, tutti, dico, tutti, cioè anche quelli antipatici, no? Anche quelli che vorrei escludere, no? A tutti, le probabilità di avere un dossier completo sono molto maggiori, perché io devo andare a verificare queste preoccupazioni ed avere quelle informazioni, no? Poi il problema qual è? Il problema è che se io do voce a tutti gli interessi, secondo la pratica della decisione democratica vigente, che io chiamo nel libro, io riprendo degli studi fatti dal dopoguerra ad oggi, confronto parlamentare, si blocca, non si decide nulla. E infatti lo vediamo, il nostro Parlamento, oppure le sedi decisionali normali oggigiorno sono bloccate, cioè impossibilità di decidere, non c'è una maggioranza e minoranza, la stessa maggioranza è fatta di tante minoranze, una contro l'altra armata, che ognuna si blocca l'altra, no? Quindi l'idea, stante che la situazione è questa, dalla fine degli anni 70 in poi, dicono gli studiosi, il libro io l'ho scritto insieme a un signore che si chiama Larry Lawrence, detto Larry Susskind, che è il più grosso teorico e anche facilitatore pratico dell'MIT di Boston di queste cose. Ha scritto già nel 87 un libro fondamentale che non è stato tradotto in italiano, tanto per cambiare, che si chiama Breaking the Impasse, rompere l'impasse, e l'impasse è l'impasse decisionale. In una società complessa è sempre più difficile decidere, e questo noi ce lo troviamo di fronte, prendere delle decisioni, perché le regole per prendere decisioni che sono stabilite 200 anni fa con l'inizio della democrazia non fanno molta fatica a essere accettate. Allora, quali sono queste regole? Prima dico i motivi per cui, uno dei motivi per cui fanno fatica a essere accettate è che oggigiorno le minoranze non accettano più il verdetto della maggioranza se non sono state ascoltate. Cioè una minoranza non accetta che qualcuno gli dica: io rappresento l'interesse generale, in nome dell'interesse generale prendo questa decisione, tu non conti niente, no? Perché sei una minoranza, quando sarai maggioranza deciderai tu, adesso decido io, zitto e buono. No? Allora, se ti vengono lì, ti fanno la TAV, ti mettono il contenitore per i rifiuti atomici nella tua cosa, qualsiasi decisione venga presa, una persona dice: no, mi dispiace, siccome tu intervieni nel mio territorio dove io vivo, mi cambi le mie condizioni di vita, eccetera, tu mi devi ascoltare, perché se tu non mi ascolti io ti blocco i lavori, io protesto. Quindi le minoranze oggigiorno non accettano dei pareri, delle decisioni nelle quali non sono state coinvolte, non sono state ascoltate. E quindi bisogna avere delle metodologie di coinvolgimento delle minoranze. Deve avere una democrazia potenziata, in cui le minoranze possono avere voce in capitolo. Invece le nostre regole della democrazia sono regole che consentono il non ascolto delle minoranze, perché sono delle regole in cui uno che ha il 51%, a parte il fatto come riesce a costruirselo quel 51%, che è tutto un altro capitolo, che meriterebbe di essere ricordato, però uno arriva lì, propone il proprio ordine del giorno, vota e se ne va. Cioè, e tu, che sei in minoranza, accetti questa cosa qua. Questo non vale più, e non vale più dagli anni 70. Cioè, il libro Breaking the Pass nell'87 già è un elenco lunghissimo di situazioni in cui questo non funziona più. Quindi questo è il... l'altra cosa è che il sistema è completo. Allora, non funziona perché le minoranze non accettano. Non funziona perché le decisioni in un ambiente complesso devono avere dossier più completi. No, per la cosa del dossier incompleto nasce dal fatto che la realtà sociale in cui si interviene è sempre più variegata, è sempre più complessa, e io per capirla, per descriverla in un modo adeguato, ho bisogno di tanti punti di vista. Se io escludo questi punti di vista, poi si verifica, quando la vado a fare, verifico che perde pezzi a tutte le parti. Quindi il motivo per cui ci vuole la partecipazione, bisogna dare voce alle minoranze, eccetera, è anche non solo democratico, insomma, il fatto che abbiamo una pretesa di coprotagonismo nel mondo che non c'è mai stata, mai, no? Le donne che vogliono contare, queste cose qua, no? Sono delle cose inammissibili, ma come? Ma perché volete contare? Quindi abbiamo gli abitanti delle valli che vogliono dire la loro sopra la ferrovia che le attraversa, la gente, cioè hai queste cose qua quindi hai questo elemento, però hai anche l'elemento che effettivamente poi le decisioni non funzionano. Cioè non funzionano le decisioni perché sono sempre incomplete. Quindi, come diceva Scott Page, quello lì del computer alla Caltech, la inclusività è una garanzia di efficacia. E poi non è vero niente che la gente è irresponsabile, perché se tu la coinvolgi, l'irresponsabilità è proprio è l'esito del non coinvolgimento. Cioè, se tu non coinvolgi, poi la gente si sente in dovere e in possibilità di contestare, no? In modo irresponsabile, se volete. Perché? Non si capisce perché dovrebbe essere responsabile se non ha nessun vincolo. Però se invece c'è un processo partecipativo vero, il fatto che si pongano dei vincoli, anche finanziari, è ovvio. Cioè, se i soldi, quanti sono i soldi a disposizione? Tot. Dobbiamo fare un progetto in cui si usano quei soldi, oppure dobbiamo trovare altri soldi, no? Come facciamo? Dove li troviamo? Possiamo porcelo collettivamente? Certo che si può porre collettivamente. La gente è assolutamente in grado di affrontare queste cose. Però l'altro elemento, e questa è la cosa che ho iniziato prima, poi è che le dinamiche di gruppo per prendere decisioni collettive in cui la diversità diventa risorsa, sono diverse da quelle del confronto parlamentare. Allora, vediamo, io penso che questa sia la cosa principale da discutere, se volete, questa sera, eccetera, perché riguarda proprio la democrazia occidentale. Riguarda una svolta della democrazia, una necessità di potenziamento della democrazia in Europa e nel mondo oggi. No? È una cosa molto grossa quella di cui parliamo, ma anche molto urgente in realtà, molto matura, no? Quando è nata la democrazia rappresentativa, nasce sulla crisi dello Stato feudale, no? E quindi nasce sopra una società che per millenni era stata una società patriarcale, nella quale comandava chi aveva il potere. Allora, chi aveva il potere poteva anche ascoltare tutti quanti, se era un illuminato oppure se voleva essere un potente benevolo, quello che volete, però poi alla fine, avendolo ascoltati, decideva lui e basta, no? E non si discuteva, cioè bisognava obbedire. chi non ne obbediva veniva punito, chi non era d'accordo doveva uccidere chi aveva il potere e sostituirsi, cioè, no? Avevi le guerre intestine, eccetera. E questo era il sistema considerato unico e ovvio, questo dentro la famiglia, nella società, eccetera, chi ha il potere decide. A un certo punto viene fuori l'idea della democrazia, che, tu hai detto un po' in soldoni, ma mica tanto, dicono. No, dobbiamo decidere tutti, tutti i capifamiglia maschi che pagano certe tasse all'inizio, eccetera. E immediatamente l'obiezione è: ma come si fa a mettere insieme tante teste? Questi sono tanti galli nel pollaio, e tutti i maschi che pagavano le tasse, eccetera, erano galli nel pollaio, proprio così, sì, in modo. Quindi come faccio a mettere insieme tanti galli nel pollaio e poi prendere decisioni comuni? No? A questa domanda, che era una domanda che sembrava non avesse soluzione, la democrazia dà una soluzione che appare miracolosa, appariva anche pazzesca, assurda. Ed è: tutti coloro che devono decidere si uniscono in un'assemblea, ognuno ha il diritto di parola. Quindi chiunque chiede la parola su un certo argomento ha diritto di parlare, non si può non dargliela. Poi c'è il diritto di contraddittorio, per cui io posso spiegare le mie ragioni rispetto a quello che ha detto l'altro, reagire, se sono interpretato male, spiegare, dire i pro e i contro, discussione, vuol dire di contraddittorio, di discussione. Esaurito queste due fasi, si vota e la minoranza accetta il giudizio della maggioranza. Questo sistema è un sistema che ha funzionato benissimo per 2 secoli, benissimo, insomma, che ha funzionato, che sembrava benissimo, miracolosamente, rispetto al sistema precedente, no? Ed è esattamente il sistema che adesso non funziona più, o che funziona molto raramente, diciamo, solo in casi molto semplici, perché è un sistema in cui appunto le minoranze, in quanto tali, non è basato sull'ascolto reciproco e non è basato sul dialogo, è basato unicamente sull'argomentazione. Infatti, tutta la democrazia rappresentativa moderna è basata sull'argomentazione. Il sistema giuridico, il giudice con la difesa e il pubblico ministero, è tipicamente la rappresentanza simbolica, emblematica, no? Di come si arriva a una decisione. I pro, il difensore, il contro, poi io, avendo ascoltato i pro e i contro, decido, no? È la terza parte, mi assumo una posizione di terza parte nel sistema giuridico e decido. Allora, anche nell'assemblea, l'assemblea è il fatto che uno prende la parola, sostiene una certa tesi, gli altri subito, quando l'ascoltano, immediatamente entrano in un atteggiamento giudicante e dicono: sono d'accordo o sono d'accordo, amico o nemico, vero o falso, no? Cioè, subito scatta una cosa giudicante in tutti quanti, e quando io intervengo dico: io non sono d'accordo, sono d'accordo in questo e quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E l'intera discussione è una discussione che è bloccata sulle posizioni di partenza con variazioni. Alla fine è una dinamica di gruppo, sia spaziale che per il modo in cui è organizzata, che porta alla contrapposizione di tesi e al voto, cioè porta al suo esito maggioranza minoranza. È una dinamica di gruppo che impedisce, rende molto difficile l'elaborazione di soluzioni creative nuove. Allora, dentro questa dinamica, il fatto che ci sia questo sgruppettamento, nella società attuale e dentro le associazioni, che ognuno voglia sostenere, ognuno si offende se non è ascoltato, eccetera, fa sì che ci sia effettivamente una paralisi, c'è uno scontento continuo. Poi è un sistema che funziona malissimo, perché dentro questo scontento continuo, perché anche lo scontento nasce anche dalla inefficacia. Queste discussioni sono inefficaci, no? Alla fine le decisioni che prendi sono dettate dal fatto che c'è una minoranza dello 0,4%, che, siccome è indispensabile per avere il 51%, viene lì e dice: se tu non mi dai 4 poltrone, io non, e non mi dai quest'altra cosa, io non ti voto. E quindi una minoranza minuscola ha un potere enorme. di ricatto e tutta una serie di interessi particolari, indicibili, in realtà hanno un peso enorme. Cioè la trasparenza è, non c'è. È tutto dietro le quinte. Tutta la cosa vera della decisione dietro le quinte è intorno ai tavoli, nelle sale, nelle ville, no? Adesso poi siamo proprio a un livello da qui è da offensivo fare un riferimento se uno dice: ah, mi sembrano i sultani. No, i sultani probabilmente sono meglio. Quindi questa è la situazione. Allora, noi abbiamo in presente questo e non abbiamo presente, o anche se lo pratichiamo a volte, che altro si può fare. È possibile, c'è un'alternativa a questa forma assembleare? Allora, nel mondo da questo problema è stato posto addirittura dopo da sempre, in un certo senso, come tutte le cose importanti sono sempre state poste dall'antichità, però in particolare da una serie di scienziati, di studiosi, sono stati posti dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Perché? Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era un bel po' di gente che era scappata dalla Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti di solito, ma anche in Australia, eccetera, che si è chiesta come facciamo a non ripetere queste esperienze. No, cioè era abbastanza inevitabile che dopo due guerre mondiali, dopo due dittature, quella nazista e quella comunista, qualcheduno si chiedesse come si fa a avere degli anticorpi, una democrazia con gli anticorpi, in cui quando queste dinamiche incominciano a sorgere ce ne rendiamo conto e riusciamo a controllarle, no? E quindi abbiamo tutta una serie di studiosi, Hannah Arendt, Karl Popper, Kurt Lewin, tantissime persone che hanno fatto questi studi. Che la cosa più strana è che non sono poi così tanto noti. Cioè, perché sono rimasti in un angolo questi studi? Sono in un angolo in un certo modo, perché io me ne sono occupata abbastanza, cito articoli che ho scritto su queste cose, in realtà è un angolo abbastanza dorato, perché poi questa gente ha finito col insegnare nelle università più prestigiose del mondo, però in una nicchia. Quindi erano proprio in una nicchia dorata, no? Pensano all'MIT, a Yale, a Princeton, nel principale, a Tavistock Institute di Londra, cioè tutta una serie di luoghi prestigiosi, però con un approccio ai problemi sociali che era troppo rivoluzionario per la maggior parte degli scienziati sociali, quindi che era l'azione ricerca in realtà. E quindi anche perché loro questi esperimenti di democrazia con una capacità, io la chiamo l'upgrading della democrazia, cioè una democrazia con una capacità dialogica e di relazione più inclusiva, li facevano non in laboratorio sui libri, ma negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole, nelle comunità. Cito nel libro alcune esperienze: la nascita delle comunità terapeutiche, la nascita dei T-group. I T-group, che T vuol dire training, no? Quindi T-group nasce, è una cosa inventata da Kurt Lewin, che nasce in Connecticut, per dare un'idea, a New Haven, in una esperienza nel 1946, quando un'associazione di ebrei e di neri americani chiama Kurt Lewin e i suoi allievi a fare delle esperienze per dare dei suggerimenti su come migliorare la conflittualità interetnica. Pensate che è attuale, no? E Kurt Lewin con i suoi allievi si mette in una università, chiama con una cinquantina di persone, da assistenti sociali, sindacalisti, commercianti, insomma gente varia, si fa raccontare li fa lavorare in gruppi, una cosa che si potrebbe fare tranquillamente adesso pari pari, anzi che si fa anche, li fa lavorare in gruppi raccontando episodi di conflittualità effettivamente sorti, su questi episodi organizzano delle piccole simulazioni e riflettono sopra queste simulazioni quali sono le dinamiche che portano al bloccarsi, al perpetuarsi il conflitto, alla sua escalation, e invece quali sono le dinamiche che consentono di risolverlo in modo creativo e positivo per tutti. Questi sono i T-group. Quindi nascono da un impegno nel sociale molto concreto. Queste sono le basi del confronto creativo, che poi è stato ripreso negli anni 70, alla fine degli anni 70, in virtù della crisi della capacità decisionale nei sistemi complessi, nella politica, nelle decisioni pubbliche, ma anche nelle aziende. E come funziona? Quali sono le regole del confronto creativo? Tenete presente le tre regole del confronto parlamentare: diritto di parola, diritto di contraddittorio, voto a maggioranza. E le tre regole del confronto creativo sono un upgrading, sono un potenziamento dialogico, il passaggio dall'argomentazione al dialogo. Qual è la differenza tra argomentazione e dialogo? Nell'argomentazione c'è un atteggiamento di tipo giudicante, immediatamente, no? Argomenti, pro e contro, vero, falso, giusto, sbagliato, amico, nemico, eccetera. Tutto basato su che cosa potrei essere d'accordo, cosa no. La tensione verso il compromesso, verso trovare una soluzione intermedia fra le posizioni iniziali. Nel dialogo c'è una condizione di parità e assumi che siano tutti intelligenti. Cioè la prima regola di un dialogo vero è che quando io parlo con l'altra persona assumo che sia intelligente e che quindi se dice delle cose diverse da quelle che io credo, il mio compito non è giudicare, ma di capire come mai pensa quello. Infatti io nelle sette regole dell'arte ascoltare, che è un altro libro che ho scritto prima di questo, perché in realtà io parto da occuparmi di ascolto e di gestione creativa dei conflitti, la prima regola, la regola fondamentale dell'arte ascoltare è: se vuoi capire quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione. Proprio quando ti sembra che abbia torto. Dici, com'è che hai ragione e io non sono d'accordo con il tuo... Come vedi il mondo perché quello che tu dici sia giusto? A te paia giusto, no? Quindi quello che succede è che trasformi la obiezione del contraddittorio in una domanda. A me sembrerebbe così, invece com'è che a te sembra cos'è? Allora, il dialogo è divertente, è leggero, è creativo, perché è giocoso, perché il dissenso, il disagio che ti è dato dal fatto che le posizioni sono divergenti, addirittura molto divergenti, lo trasformi in un'occasione di apprendimento. E questo è reciproco, naturalmente. Cioè, tutti lo fanno tutti, no? Il gioco è questo. Il piacere dello stare insieme, il piacere di trasformare le diversità in risorsa, nasce da questo senso di uguaglianza, di parità e da questa capacità di trasformare in continuazione quello che sarebbe contrapposizione invece in un'occasione di apprendimento reciproco. Come avviene in qualsiasi piacevole conversazione, no? Qualsiasi bravo conversatore adotta questa metodologia in realtà. Usa l'umorismo, l'ironia, tutta una serie di strumenti che permettono una pluralità di significati. Io la leggo così, ma tu come lo leggi? Non è vero che il mio modo di leggere la cosa è l'unico, vero, giusto, e non esistono altri, per cui tu, siccome la pensi diverso, sbagli, no? C'è questo momento di apprendimento. Allora, è possibile questo che vale nelle buone conversazioni anche a tavola, ovunque, no? Cioè, se stai bene con la gente, non vorrei mica star bene solo con la gente che la pensa come te, è una noia da morire, no? Stai bene con la gente che la pensa in modo diverso, e perché usi queste diversità per imparare delle cose, per crescere, per vedere come il mondo può essere più complesso e vario, no? Allora, com'è che fai questo a farlo valere in decisioni politiche importanti? Allora, nel libro faccio tanti esempi di decisioni politiche prese in questo modo. Fa parentesi, addirittura per preparare Rio o Kyoto è stato usato questo tipo di approccio. Quindi è delle cose a livello mondiale, internazionale. Ma le tre regole fondamentali sono: upgrading, diritto di parola. Al posto di diritto di parola, diritto di essere ascoltati. Allora, diritto di essere ascoltati vuol dire che ognuno di noi su quel tema esprime le proprie preoccupazioni, posizioni, progetti, quello che vuole, e tutti gli altri lo ascoltano con atteggiamento di ascolto attivo, cioè assumono che ha ragione, qualsiasi sia la posizione divergente. Quindi c'è un primo giro in cui, avendo messo tutto il mondo in una stanza, è uno dei slogan, cioè tutte le posizioni devono essere presenti, ad ogni posizione si cerca di capire il senso, le ragioni, i fondamenti di quella posizione. E si fanno domande per capire questo, senza per questo sentirsi diminuiti. Cioè, non è vero che se io capisco le ragioni dell'altro, automaticamente le mie sono sbagliate. Quindi è una situazione che per uno che è molto abituato in un clima argomentativo è abbastanza paradossale, perché gli sembra A e non A, tutti e due veri, no? Questa è l'idea che ti viene. Però va bene così. Questa è una tensione creativa che si sta creando. Io attraverso questo ascolto imparo un sacco di cose veramente fondamentali per poi prendere decisioni più sagge e che funzionano meglio. E questo è il primo. Secondo, al posto del diritto di contraddittorio, il diritto di moltiplicare le opzioni. Dopo aver ascoltato in modo attivo, cioè cercare di capire le ragioni, i fondamenti, guardate che questo poi è una carta fondamentale di trasparenza, perché se io invito anche lo speculatore più odioso di sto mondo, che però è interessato alla cosa, che viene lì e mi deve spiegare quali sono i suoi progetti, c'è una regola tanto di trasparenza. Cioè lui mi dice i suoi progetti, poi si prendono decisioni insieme, no? Io lo prendo sul serio quando lui mi dice cosa. E c'è una regola che la frase esatta in questo momento non mi viene, ma è la virtù civica dell'ipocrisia. Adesso no, dopo mi verrà meglio, perché è un sociologo, John Estell, che ne parla, che dice: se io in totale trasparenza e senso di responsabilità verso i miei concittadini devo dichiarare le mie intenzioni, non posso dichiararle in un modo troppo vergognoso. Cioè, non posso dire: non me ne importa niente se i bambini muoiono di fame, io voglio guadagnare cose. Devo riuscire a spiegare le cose in un modo più accettabile, ok? Cosa che gli altri prendono sul serio. Cioè, e a questo punto dice: sì, giusto, però guarda, allora siamo proprio d'accordo che i bambini non devono morire di fame, no? E quindi cioè, riesce a stabilire un sistema che John Elster, nel libro di cui ne parla, mostra che viene, cioè, nel caso della formulazione delle Costituzioni, per esempio, è stato come mai la Costituzione italiana, la Costituzione francese, quella americana. Sono dei testi di grande spessore e di valore che durano nel tempo, no? Perché la gente, quando era impegnata a farle, aveva questo tipo di atteggiamento. E vabbè, io poi ne ho parlato con alcuni della Costituzione, ho verificato che è così. Quindi il fatto dell'ascoltarsi e di potere e di dovere e poter esprimere le proprie preoccupazioni è fondamentale. Perché i propri interessi, eccetera. Cioè, in questo nuovo gioco, che è il confronto creativo, essere espliciti sui propri interessi è fondamentale, perché se tu non lo sei, la gente ti prende sul serio su quello che tu dici. E poi dopo ci perdi tu, insomma. Cioè non si può fare i doppiogiochisti e non si può fare gli accordi nei corridoi. Seconda regola, moltiplicazione delle opzioni. Dopo che ci si è ascoltati tutti, ci si lascia di solito e si dà appuntamento per una prossima riunione, perché il prossimo passo è un passo veramente creativo che richiede del tempo, perché la gente deve riflettere su quello che ha imparato e la prossima volta arriva con delle nuove proposte, che sono delle proposte ponte, che cercano di farsi carico delle altrui preoccupazioni, quelle di cui si riesce a farsi carico. E quindi avevi 20 proposte iniziali, 20 proposte per queste iniziali, alla prossima riunione c'è la 21, 22, 23, 24, che sono diverse, sono delle trasformazioni, no? E quindi sono opzioni ulteriori, però di un livello logico superiore, perché sono ponti. Questa moltiplicazione delle opzioni anche è il passaggio dall'intelligenza individuale all'intelligenza collettiva. E questa è un'altra cosa fondamentale del confronto creativo. Che cos'è l'intelligenza collettiva? Mentre nell'argomentazione ognuno arriva con una propria posizione che difende allo strenuo, e se gliela bocciano si sente bocciato lui stesso, no? Se io mi sono preparato bene, ho fatto una proposta, ve la vengo, l'ideale è che voi ve la dico, voi tutti dite ah che bella questa proposta, ne avevo un'altra ma la tua è molto migliore, votiamo la tua, e uno se ne va via tutto contento. Questa è l'idea, questo ego, super ego, no? Che sta alla base di questo modo di non dialogare, in realtà. Io ho ragione, voi avete torto, mi date ragione e riconoscete che avevo ragione. Invece nel confronto creativo basato sull'ascolto, quando io ascolto tutti, a quel punto tutti ragioniamo sulle proposte di tutti. Quindi l'idea è, ci sono tutte queste posizioni, che cosa ne facciamo? Quindi ognuno ha come responsabilità propositiva e creativa quello di fare al meglio qualcosa con tutte quelle posizioni. Quindi il simbolo è il cerchio, la parità, e la bacheca. La bacheca sulla quale ognuno mette la propria proposta, e discutiamo tutti sull'insieme delle proposte, non ognuno sulla sua. No, la mia è lì, si vede, c'è il mio nome se volete, ma quindi c'è il mio contributo personale, ma il mio successivo contributo personale non è difendere la mia contro le altre, è come contribuisco a fare in modo di valorizzare al massimo l'insieme delle proposte. E questa è un'esperienza intellettuale meravigliosa, cioè che vale veramente la pena e che crea veramente un senso di comunità, di comune appartenenza, che dà soddisfazione a tutti, anche a quelli che non hanno avuto quell'idea ponte, no? Perché l'idea ponte nasce comunque dal fatto che lui aveva messo lì la sua proposta come contributo all'insieme delle proposte. Allora, in questa moltiplicazione delle opzioni c'è questo, e c'è anche quello che avete fatto voi, cioè andare in giro a cercare le buone pratiche. Dobbiamo risolvere il problema della mobilità o della partecipazione, delle metodologie partecipative. Che cosa c'è in giro? Già, dobbiamo essere informati. Quindi la comunità è una comunità indagante che impara. E la gente impara, non è che rimane lì bloccata sulla propria posizione di partenza a difenderla contro gli attacchi, no? O ad attaccare le altre per difendere, per farla valere. Impara cose nuove, cresce e arriva a delle soluzioni inedite. Allora, uno dei compiti di un facilitatore di un processo del genere è di impedire che ci sia questa ansia di chiudere il più presto possibile. No, tiriamo fuori delle altre, andiamo a vedere delle altre esperienze. quando ce ne sono tante, che la gente non ne può più, diventa veramente un po' esasperata, vediamo, ci sono venute fuori delle idee che piacciono a tutti, che ci hanno sorpreso, che veramente ci piacerebbero, magari che all'inizio consideravamo marginali, eccetera. Intorno a quelle idee proviamo a fare una proposta nuova che ci trova tutti più, che tutti giudichiamo migliore di tutte quelle di partenza. Questo è l'obiettivo. Elaborare insieme una proposta migliore di tutte quelle di partenza. Ultimo, e questa è la coprogettazione creativa. Ci sono anche qui delle metodologie per farla, nel libro ci sono scritte, se non mi metto qua. Però l'idea è questa. Questa è un'idea di democrazia che adatta a una società complessa, che funziona in una società complessa. Una democrazia nella quale le sedie, invece che essere così, sono messe in cerchio, oppure sono messe per tavoli, no? Ci sono tanti tavoli rotondi, di massimo 8 persone l'uno, in cui io faccio una provocazione come questa, poi voi discutete al tavolo per 20 minuti e poi la discussione del tavolo viene ridata alla cosa. Cioè, in cui è molto importante il faccia a faccia, il gruppo, l'esperienza di ogni singolo partecipante. No? E su questo ci sono tantissime metodologie che stanno ormai, ce ne sono alcune che sono diventate veramente molto comuni e vengono adottate perché sono molto efficaci. Cioè non è una questione ideologica, è proprio una questione di efficacia. Un open space è più efficace di un'assemblea, non neanche confronto. E quindi questo è dimostrato. Un town meeting, forse dobbiamo cambiare i metodi dei nomi meno americani, che andrebbe bene, però l'idea è che la gran parte della campagna di Obama è stata fatta con questi strumenti, con queste modalità di discussione, no? E quindi quando uno, c'è un ultimo punto, che questo è utile anche a voi che siete impegnati in questo progetto, quando consegnate le idee guida, le linee guida per intervento sopra il problema della mobilità, eccetera, chiedete a chi prende le decisioni di riferire e di discutere con voi le decisioni poi che effettive che prende, e poi chiedete di avere dei momenti di verifica. Cioè di dire, allora, queste sono le decisioni, ok? Fra 3 mesi chi verifica a che punto si dovrebbe essere? Andiamo a vedere se è vero. Fra 1 anno ci si rincontra qui e si rende conto di che cosa si è fatto, no? E se c'è un cambiamento di programma per qualsiasi motivo, come ci si riconvoca e come, no? C'è un problema di effettiva realizzazione poi delle decisioni, che è veramente molto importante, perché la gente non ha voglia di perdere tempo. Allora, su questo, e con questo chiudo, perché poi mi piace molto provare ad ascoltare voi, l'idea di partecipazione che è collegata con questo discorso che vi sto facendo è un'idea in cui ognuno partecipa alle cose a cui tiene. Non è la partecipazione onnivora, no? Dei partiti tradizionali, insomma, in cui hai hai gli iscritti al partito che vanno a tutte le riunioni e discutono tutti gli argomenti, no? E questo qui ormai è attualmente irreggibile, cioè non si regge proprio, no? L'idea è che ognuno va solo alle cose a cui interessa, è la garanzia che le cose, io come cittadina sono interessato un po' a tutto quello che riguarda la mia vita, però su alcune cose sono interessata di più, no? Va bene, perché? Perché ne so, perché mi riguardano più da vicino, eccetera. Quindi io mi occupo di alcune, o di una sola, insomma, per un periodo limitato, cioè questi processi sono processi che devono durare alcuni mesi, non possono durare da anni, no? Quindi per un certo periodo sono disposta a dare il mio contributo insieme agli altri e a impegnarmi, eccetera. Che cos'è che mi rassicura che anche sulle altre decisioni a cui tengo, ma a cui non ho voglia di partecipare e non ho tempo di partecipare perché devo fare delle altre cose, ho una garanzia che la decisione verrà presa in un modo affidabile? Il fatto che anche lì si adotti un sistema che sia inclusivo e trasparente, no? Con altra gente, che anche lì chi ha voglia di occuparsi di quella cosa lì possa farlo, e lo possa fare in un ambito in cui molti punti di vista, non solo quello degli amici, possono essere presi in considerazione. E quindi l'idea di come funziona una società democratica, spesso una è l'idea che in Svizzera già un pochino sia più così, un pochino più che in Italia, non so, voi che idea avete? Cioè, la mia idea, c'è un esempio che faccio nel libro di una fabbrica che è preso da un'inchiesta vera di una serie di fabbriche a Reggio Emilia che si stanno trasferendo in Svizzera, no? È vero, era una trasmissione televisiva presa diretta che è andata, ha seguito questi imprenditori, anzi una donna imprenditrice di una fabbrica metalmeccanica che aveva deciso di trasferirsi in Svizzera e cerca di capire i motivi per cui si trasferisce in Svizzera. Ed è una bella legnata per una, no, perché finché si trasferiscono in Romania, in Albania, dice ah, ma perché lì costa molto meno il lavoro, invece se vengono qua, qui non è una questione di costare meno il lavoro, è questione che c'è una pubblica amministrazione che gli garantisce delle cose che in Italia, è un sistema bancario che in qualche modo gli garantisce delle cose che in Italia non vengono garantite. Allora la mia ipotesi è che in Svizzera almeno a quel livello ci sia un senso di confronto creativo, cioè che quando tu fai queste proposte fai un pacchetto in cui hai ascoltato i bisogni effettivi di un'azienda che deve insediarsi in un territorio e sei venuto incontro per davvero, cosa che è vera, perché poi questa imprenditrice viene qui e dice mi danno il terreno praticamente gratis, in 3 mesi la banca mi dà il finanziamento, non pago le tasse per 8 anni se assumo dei giovani locali, no? Cioè sono tutte cose che in Italia te le sogni. In Italia la stessa persona che era 40 anni che aveva lì con una fabbrica fondata dal padre aveva visto bloccato il conto in banca perché era in rosso. E aveva dei macchinari che valevano una enormità, quindi non è che non poteva in qualche modo poi riuscire ad avere un prestito, no? Quindi hai dei sistemi di non ascolto e di incapacità di coordinamento che sono vitali oggi, no? Quindi secondo me in Svizzera siete un po' meglio messi, ma non so cosa pensate voi. Grazie. Grazie mille a Marianella. Noi purtroppo non avevamo ancora a disposizione la sua ultima pubblicazione, che è molto chiara, molto didattica, anche di semplice lettura, perché racconta molti esempi, e quindi per chi vuole praticare questa esperienza è uno strumento molto utile. Noi abbiamo utilizzato soprattutto la tua esperienza di Torino, avventure urbane. Per quello ti parlo di camminare di quartiere. Certo, arrivano. E abbiamo anche assunto una certa confidenza, in effetti la chiamo Marianella, così non ho mai cioè la seconda volta che la vedo, però la sento molto, molto vicina. Però una cosa che abbiamo sentito in modo molto forte, è stata un'esperienza che ci ha messo spesso in discussione, abbiamo agito anche alle volte con molta insicurezza, con tutte le incertezze che un'esperienza nuova pone, però sentivamo sicuramente quello che diceva Marianella prima, che stavamo vivendo un cambiamento epocale, cioè stavamo cambiando qualcosa, era qualcosa veramente di diverso, di innovativo, di nuovo, e questo credo che l'abbiamo sentito in modo molto forte e l'abbiamo vissuto anche con molto piacere. Speriamo che possa avere un seguito, questo sicuramente. Adesso magari tralasciamo gli altri flash partecipativi. Ecco, desideravo comunque darvi subito la parola a voi per almeno un giro di domande, se avete delle domande, dei desideri, delle richieste particolari. Purtroppo Marianella dopo ci dovrà lasciare. Se c'è un treno al 48, mi sembra l'ultimo. Ecco, l'ultimo. Quindi rimango magari chiedo a voi se avete delle domande, delle richieste, volete intervenire. Vedete l'utilità dei tavoli? Perché se voi foste seduti in tavoli di 5-6 persone, immediatamente incominciereste a parlare fra di voi, dicendo le vostre impressioni personali, la vostra esperienza su queste cose qui, eccetera. E poi, quando dopo questi 20 minuti del tavolo che lavora insieme, un portavoce del tavolo dice, riassume la discussione a tutti gli altri, vengono fuori una serie di considerazioni vere, concrete, no? Con i veri motivi di difficoltà di capire certe cose o di praticarle, no? Cioè è una discussione che serve, no? Cioè non è una discussione in cui uno fa le domande, a parte che voi non le fareste, ma insomma solo così per farle, ma e poi non c'è questo momento in cui che tutti noi viviamo, cioè anch'io quando sono seduta lì vivo, perché prima di parlare mi tocca fare una sintesi di tutto quello che ho sentito per vedere come si pone la mia cosa rispetto a quello, no? E quindi è un senso di disagio e di... Ecco, prego. Sì, invece sì, no, immagino che da fuori. Ecco, anche, scusi, anche rispetto a quanto è stato detto prima dal responsabile di Radix, proprio sulla questione della pianificazione, noi siamo molto impegnati sul territorio proprio per difendere coi denti la possibilità di partecipare come cittadini e di districarci un pochettino dal rapporto maggioranza-minoranza. La minoranza tace, la maggioranza vince e impone. Ecco, io dico semplicemente come funziona qui in Ticino, perché no, non mi sembra di aver capito questo dalla breve citazione che è stata fatta prima della situazione qui in Ticino, che mi sembra molto diversa da quello che viene propugnato in Svizzera e realizzata, no? Cioè, qui noi... Parlo di pianificazione territoriale. La pianificazione territoriale si articola su quattro punti. Strategia, concetto generale, nessuna partecipazione. Master plan, che è già un progetto, nessuna partecipazione. Noi abbiamo fatto un ricorso e ci hanno inchiodati, sia al Consiglio di Stato che al Tribunale Amministrativo. Non siamo andati avanti, forse ci avrebbero dato anche ragione, però potete immaginare per quale motivo non si va avanti. E poi si arriva al consolidamento pianificatorio, terza fase, che è praticamente il piano regolatore. Allora lì è ammessa la partecipazione della popolazione, quindi con referendum e via di seguito. Quarto punto, attuazione, cioè il cantiere. Riflettete un attimo su questo. Non mi sembra, non sono molto addentro nella questione, ma non mi sembra che sia la prassi nel resto della Svizzera. È qualcosa di veramente molto ticinese questo qui. Ma nel senso che è meglio nel resto della Svizzera rispetto a qui? Sì, sì, perché noi in qualche modo difendiamo quello che l'AREP, che è l'istituto del Dipartimento del Territorio federale, insomma. Ecco, difendiamo questi principi, no? Quindi di partecipazione, di quartieri ecosostenibili e via di seguito, cose che io ho sentito anche dalla sua relazione. Ecco, quindi anche un po', non per parlare male che succede per qui, capire, ma per non idealizzare troppo una situazione che sì, ha degli aspetti che lei definisce, perché in definitiva il nostro sistema è un sistema consociativo dove tutti sono presenti se hanno una certa rappresentanza elettorale, insomma, quindi non c'è minoranza e maggioranza, però nella realtà c'è, cioè poi in definitiva chi ha una forza elettorale minore, insomma, ha poca voce in capitolo all'interno del collegio. Ecco, questo è quello che nella realtà succede anche da noi. Ecco, è tutto. Grazie. Potrei fare una domanda io rispetto anche alla nostra esperienza. Noi siamo nati anche sulla base della proposta aggregativa con la città di Lugano e noi ci siamo posti il problema di ma che possibilità partecipativa avremmo avuto. È un po' questo il motivo per cui abbiamo fatto questo lavoro. Adesso una delle domande che ci stiamo ponendo è: ma quali tipi di regolamenti potremmo proporre per far sì che la nuova realtà comunale dia comunque spazio ancora alle possibilità decisionali dei cittadini e non sia solo una graziosa decisione dell'esecutivo che, quando lo desidera, dia la possibilità ai cittadini di partecipare. Buona domanda. Sì, ne approfitto anch'io, visto che nessuno si annuncia. C'è una questione che veniva, mi sembrava, quasi data per scontato, il fatto che questi gruppi partecipativi hanno una rappresentanza ampia di interessi, esperienze, pensieri, ideologie. E la domanda sarebbe questa, insomma: come garantire o come motivare alla partecipazione all'interno di questi gruppi, dove ci si confronta in maniera inclusiva, come ha ben detto, chi si dimostra non interessato, vuoi scettico, vuoi disilluso, vuoi non ha tempo, vuoi è stanco, insomma, c'è bisogno, cioè, si va porta a porta, diceva, potrebbe essere un metodo, ci vogliono delle istanze che in un qualche modo si fanno carico di questo, come muoversi? Beh, l'ascolto è un grande motivatore, la capacità di ascolto reale, perché ascoltare vuol dire fissare la propria interesse, la propria attenzione sulla persona e proprio con la postura, con il modo con il quale ci si rapporta a questa persona, il messaggio è: tu sei importante per me. E deve essere un messaggio vero, cioè non può essere finto. No? Quindi io, quando ascolto, mi proprio il mio interesse, un po' metto fra parentesi il mondo esterno e cerco di capire, e a maggior ragione ascolto quando non capisco, quando dissento e verifico. L'ascolto richiede: ho capito bene, tu stai dicendo questo? Perché molto spesso uno pensa di capire, ma capisce una roba diversa da quella che l'altro sta dicendo, no? Quindi richiede una richiesta di conferma, un ripetere con le proprie parole per assicurarsi di aver capito bene, il non aver timore del dissenso, non aver timore del fatto che la persona, anzi, accogliere addirittura come un contributo il fatto che la persona ha delle posizioni divergenti, proprio perché la tua posizione divergente è utile. Perché questo mi costringerà a inventare qualche cosa che sarà più efficace poi alla fine, no? Tutti assieme. No? Quindi l'ascolto è fondamentale. E quindi per questo si chiama l'outreach in inglese, no? vai fuori a cercare la gente, perché il messaggio è, cioè, la gente che non partecipa alla politica ha ragione. Diciamo che dobbiamo capire questo, no? Cioè, che siccome io vado a una riunione politica, vedo che non serve a niente sostanzialmente, vado due e vedo che non serve a niente sostanzialmente, ma scusa, ma che me la fa fare di andare alla terza? Io certe volte penso che coloro che continuano a partecipare alla politica sono dei fanatici, cioè, perché lo fanno per una passione irrazionale, no? Cioè, perché ormai sono diventati una cosa di ego, no? Cioè, io si danno un senso a se stessi, ma non a quello che fanno. Se uno vuol guardare all'efficacia effettiva della politica, la politica attualmente non la offre di solito. Allora, io devo, se voglio fare un approccio partecipativo di comunità, devo, anche per come agisco, e quindi andare a cercare la gente, chiedere a ognuno chi altro secondo te ci deve essere. E ascoltare, cioè io mi chiedo il numero di telefono, l'indirizzo, vado a trovare quella persona che quello lì mi indica, no? Poi alla fine, quando faccio questa valutazione geografica, quando scrivo queste due paginette con l'insieme delle posizioni proposte, gliele mando, se hanno l'email è più facile, se no, insomma, in qualche altro modo, gliele mando e dico: c'è la tua posizione qui? Perché se non c'è, dimmi che cosa devo mettere, perché io voglio che tu ti riconosca in una di queste posizioni. Quindi alla fine la gente arriva e ha già la valutazione geografica, è già intelligenza collettiva. Cioè partiamo, non dopo ognuno spiega meglio le proprie posizioni eccetera, però è chiaro che il punto di partenza è: abbiamo un arco di posizioni, dobbiamo trovare, a partire da imparare da questo arco di posizioni, trovare una soluzione che va bene per tutti. E questo è possibile se la gente ci crede, ed è lì il difficile, ci riesce. Perché noi siamo molto più creativi di quello che di solito abbiamo occasione di sviluppare, di mostrare, di praticare. Siamo molto più creativi. E siamo capaci di trovare tantissimi agganci. È ricchissima la vita intellettuale di una comunità, di un gruppo, se ci si mette con un atteggiamento di intelligenza collettiva, no? Quindi questo è... quindi questo, poi l'altro appunto è il camminare, il muoversi. C'è tutta una serie di persone che non vengono e non si occupano delle cose perché non vogliono la discussione accademica, cioè perché non sono adatte a parlare in un'assemblea come questa, perché non sono adatte a star sedute lì in fila così, a dover chiedere la parola e a dover intervenire tutto vocale, no? Col sedere sulla sedia, no? C'è una bellissima intervista di un signore che si chiama Ken Robinson. No, sì, Ken Robinson, se andate su YouTube, sono delle conferenze di grandi persone geniali, e questo è veramente geniale, che parla di queste cose qua. Lui è andato di come funziona l'intelligenza, come l'intelligenza e il moto, il camminare e stare negli ambienti sono collegati, no? E questo dovrebbe servire anche nelle scuole, per i bambini, per le cose, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, allora se io vado a fare una camminata di quartiere, un sopralluogo insieme a queste persone, non uso sopralluogo perché sopralluogo è molto tecnico, di solito lo fanno solo gli esperti, no? Ma in realtà anche un sopralluogo, si va insieme, si vede che cosa, che problemi ci sono qui, che cosa... La gente dice, ah, vedi lì? Ecco, non c'è bisogno di fare un discorso, no? Dice, lì abita uno spacciatore, al secondo piano, e dalle 10 di sera in poi abbiamo un giro continuo di gente, e qui nessuno, per cui noi dalle 10 di sera in poi in questo quartiere non ci sentiamo sicuri. Quella porta lì è rotta da 6 mesi, abbiamo detto alle case popolari di aggiustarla, ma non ci rispondono, dicono sempre la settimana prossima, ma sono 6 mesi che è lì. Qui piove dentro, no? Qui c'è uno spazio che potrebbe essere un piccolo giardino, invece è un immondizzaio. E c'è della gente col quale Bloknote che scrive. Questa è una osservazione, cioè moltissima gente è a proprio agio nel fare così, compresa me. È molto più difficile che queste cose vengano fuori se ti riunisci in una stanza, no? Come fanno a venire fuori? Non si può. C'è questa concretezza che la gente ama, giustamente, perché non vuole perdere tempo, perché non è un luogo in cui ognuno facciamo a gara di retorica, no? Quindi questa è la cosa. Quindi bisogna conquistare la gente, fargli capire che stiamo facendo una cosa diversa, nuova. Fargli capire che ci teniamo che tu, nome, cognome, con la tua esperienza, con la tua età, con la tua cosa, ci dia una mano. Questo è fondamentale, questo è poi fondamentale in tutto, anche nel volontariato, insomma. Cioè, questa è la molla fondamentale. Ognuno di noi si muove se sente di essere desiderato, no? di poter dare veramente un contributo. C'era un'altra cosa che mi viene in mente rispetto alla prima, poi la prima era una serie di informazioni utili. Poi mi date, prima che me ne vada via, una cosa, perché voglio vedere il vostro DVD con tutte le esperienze che avete raccolto. No, vale anche per Ticino e per gli altri cantoni svizzeri, immagino, perché vale un po' universalmente, ma quando si parla di partecipazione io trovo utile distinguere quattro livelli. Per partecipazione intendo una democrazia deliberativa, cioè una democrazia che non solo è rappresentativa, lo do per scontato, deve essere rappresentativa, ma quando prende una decisione va a coinvolgere coloro che sono interessati in quella decisione. E quindi non, allora, la democrazia, i livelli di partecipazione sono i seguenti. Livello zero. La democrazia rappresentativa è una democrazia dell'elite del potere. Io eleggo dei rappresentanti per 4 anni, 5 anni, quant'è. Questi qui, una volta eletti, sono un'elite del potere che insieme ai propri esperti, amici e con le altre elite del potere che non possono ignorare perché sono elite del potere, quindi sono potere economico, potere bancario, potere militare, che comunque quelli lì sono lì, decidono. Dopo 4 anni, 5 anni, il cittadino normale di nuovo è chiamato a dare un giudizio e quindi a dire sì, ti confermo o non ti confermo. Questa è la democrazia rappresentativa. Quindi la democrazia rappresentativa è costitutiva di elite del potere, che è molto è sempre meglio che siano quelle invece le baronie, insomma, no? A parte che poi si ricostituiscono, insomma. Cioè almeno l'abbiamo, è nostra responsabilità e facciamo mea culpa. Questo è il livello zero. Poi c'è il livello 1, che di solito quando si parla di partecipazione di solito si parla o del livello 0 o del livello 1. I nostri politici sicuramente non vanno al di là del livello 1, meno delle pochissime eccezioni. Il livello 1 è l'elite del potere sentono il bisogno di consultare i cittadini. Come li consultano? Adesso non so se questo a livello del piano regolatore la consultazione è così. Comunque se sei già arrivato al piano regolatore è già pronto, siamo già a livello 1. Okay? Cioè hai già deciso tutto e gli dici cosa, forse la panchina può essere messa un po' più in là invece che un po' più in qua, ma insomma, no? Con referendum puoi anche bocciarglielo in realtà, ma insomma. Però a livello 1 è coloro che hanno il potere, sono lì del potere, si rivolgono ai cittadini individualmente, come se fossero delle monadi, e a ognuno chiedono: tu cosa ne pensi di questa idea? Quali sono i tuoi suggerimenti? Quali sono le tue idee su questo? E il modello è quello del sondaggio, no? Cioè lei cosa pensa di questo problema? Allora, il 36% pensa così, il 10% così, il 4% così, eccetera, eccetera, no? Quindi tu hai un elite del potere e i cittadini che sono isolati come una specie di magnete, tutti rivolti verso il potere, come siete seduti voi, tutti rivolti verso di me, no? Che non vi guardate fra di voi perché non avete nessun modo di collaborare, no? E di pensare che il contributo di quello che è seduto avanti, dietro, cosa è utile per capire, perché è il modo con cui sono disposte le sedie che vi fa assumere questo tipo di atteggiamento, anche se non lo pensate. È per quello che questo modo di assumere sedia è ottocentesco. No, e quindi ognuno dà la sua risposta e dicono: ecco cosa pensano i cittadini. Menzogna. Questo non è quello che pensano i cittadini, questo è quello che i cittadini rispondono a domanda precostituita. Cioè io ti faccio una domanda, tu hai 3 possibilità di risposta, tu ne scegli una, quello è quello che pensi. No. Quello è quello che rispondi a quella domanda. Perché pensare è una cosa un pochino più complicata. Pensare vuol dire dialogare con se stessi e con gli altri e far crescere le idee, no? Cioè il pensiero e il dialogo sono strettamente collegati. Se io non ho la possibilità di dialogare, io non penso, chiuso. Io reagisco, no? Io dico la prima roba che mi viene in mente stante quelle 3 scelte. Ma se io non posso riformulare la domanda che tu mi fai cambiandola, io non sto pensando, se mi togli quella possibilità, no? Quindi non è quello che penso, è anche utile vedere come reagiscono i cittadini, non è che lo butto via, però non ditemi che è quello che pensano. Cioè è quello che gli viene in mente quando tu gli fai quelle cose lì, no? Quindi questo è il modello della partecipazione, consultare la gente su decisioni più o meno già prese o anche per sondare gli umori, eccetera. Allora, molti degli altri sistemi partecipativi sono analoghi. In Italia si usano molto, come estremo esempio di grande partecipazione, una roba che chiamano gli stati generali. Stati generali vuol dire che tutte le corporazioni, tutte le associazioni, tutti coloro che sono interessati a certa cosa si riuniscono in una stanza e ognuno dice quello che, deve, che bisognerebbe fare. Il potere ascolta tutti, dice benissimo, arrivederci, ritorna al suo attore d'avorio e decide. Quindi ognuno parla al potere, cioè tu non parli agli altri. Questo vale anche nei centri di ascolto. Adesso per far vedere che si è moderni si aprono continuamente centri di ascolto, no? Il centro di ascolto è una specie di luogo che assomiglia moltissimo al luogo in cui il feudatario riceveva i servi della gleba e i valvassori, eccetera. Cioè lì c'è il potere che, o comunque uno per lui, una persona per lui, magari una ragazzina giovane e simpatica, che però così riesce a guadagnarsi un po' la vita facendo il centro di ascolto, e la gente va lì e racconta i suoi cahiers de doléances, no? Cioè racconta se questo che non funziona, quell'altro non funziona, dice ah va bene, mi scrivo tutto adesso. Cioè ognuno singolo, isolato, come se noi fossimo persone singole, vedete, come se la nostra mente fosse qua dentro. Cioè abbiamo tutta un'idea dell'essere umano che è totalmente sbagliata. La mente non è mai, non è qui, la mente è qui, è fra. No? È in piazza, diceva un famoso antropologo, è nel modo in cui noi danziamo, la danza dello stare insieme, no? Quella è. Giusto, basta. Allora, scusate, sì, due minuti solamente perché ho due livelli che devo dire. Questo è il livello 1 e di solito quando si parla di partecipazione si parla o 0 o 1 e 1 sembra già un premio enorme. Il vero livello della partecipazione è il livello 2, nella quale i cittadini si pongono come comunità indagante e il dialogo è fra cittadini. Cioè tu crei dei contesti in cui i cittadini, dialogando fra di loro e anche con chi ha il potere, ma fondamentalmente fra di loro, imparano delle cose e riescono a fare dei progetti. Il sistema che avete fatto è un livello 2, secondo me. Quindi siete molto bravi. E per quello che avete l'idea, che avete la sensazione che state facendo una cosa rivoluzionaria, perché lo è, no? Cioè, anche nelle assemblee, vabbè. Tutte le cose rivoluzionarie sono già state fatte prima, insomma. Ultimo, quando la pubblica amministrazione, queste metodologie di creazione di contesti di mutuo apprendimento, in cui i cittadini alla pari si guardano in faccia e discutono e vanno a fare passeggiate e verificano e prendono decisioni insieme al potere politico, che non è più elite potere a quel punto, ma è garante del gioco dell'ascolto, se l'amministrazione ha questi strumenti come strumenti normali, come procedure, come protocolli normali, abbiamo un livello, abbiamo fatto una rivoluzione nella democrazia. Cioè la democrazia è diventata una democrazia rafforzata, adatta ai tempi difficili che noi viviamo oggi. E adesso vado a prendere il treno perché sennò poi a Milano stanotte non ci arrivo. Vi saluto e vi ringrazio moltissimo. Bene, grazie a Marianella. C'è una piccola dolcezza per te che ti porti dal Ticino, che abbiamo anche delle cose buone. Adesso facciamo veramente la parte partecipativa, che abbiamo imparato che è solitamente l'inizio e la fine delle riunioni, dove si discute di più e dove sono i momenti più conviviali e piacevoli. È un po' tardi, mi dispiace, però, e grazie a tutti voi per aver partecipato.